Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. L'ascesa all'Alpe non fu difficile trovare la strada, durò 3 ore. Il sentiero, dal momento che era servito a condurre il bestiame all'alpeggio, era largo e in buone condizioni. Se la parete si fosse formata qualche giorno più tardi, lassù si sarebbe trovata una mandria di buoi con la sua mandriana. Ma non avevo intenzione di lagnarmi, per me tutto sarebbe potuto andare molto peggio. La malga si trovava in mezzo a un vasto prato, sul quale l'erba già incominciava a ingiallire. Mentre vagavo per quei pascoli soffici, pensai a Bella, che tutta l'estate aveva mangiato gli steli ispidi e frutticosi della radura, mentre qui avrebbe trovato un'erba tenerissima. Subito mi venne l'idea di condurla quassù nel prossimo maggio, ma allo stesso tempo le difficoltà che vedevo spuntare davanti a me erano tali da farmi desistere per lo spavento. La malga era in buone condizioni e all'occorrenza vi si poteva trascorrere un'estate. Trovai una zangola, 2 vecchi almanacchi e, attaccata all'armadio con delle puntine, la foto di una diva del cinema a me sconosciuta. Si era dunque trattato di un mandriano. La capanna era sudicia. Le stoviglie mostravano bordi di grasso bruciacchiato e il tavolo probabilmente non era mai stato raschiato. Trovai anche un cappello di feltro dai riflessi verde cupo e una mantella di loden strappata. Ero stanca e la mia voglia di mirtilli rossi scemava. Dovetti forzarmi a proseguire. Infine trovai il posto dove crescevano le bacche, ma erano appena rosate. Per coglierle dovevo quindi tornare un'altra volta sull'Alpe. Prima di incamminarmi sulla via del ritorno, cercai un punto dal quale lo sguardo potesse spaziare sul territorio. Là, il prato si confondeva col bosco, per poi precipitare bruscamente in un ghiaione. Sedetti su un ceppo e col cannocchiale lasciai vagare lo sguardo in lontananza. Era una bella giornata d'autunno e la visibilità era ottima. Tremai leggermente iniziando a contare i campanili rossi. Finii per contarne 5, oltre a poche case minuscole. I boschi e i prati non avevano ancora incominciato a cambiare colore. Qua e là si vedevano rettangoli d'un colore ammarato, i campi di grano non mietuti. Le strade erano deserte. In alcuni piccoli oggetti mi parve di riconoscere degli autocarri. Laggiù tutto era immobile. Non saliva fumo e non c'erano stormi di uccelli a invadere i campi. Scrutai il cielo a lungo. Rimasi vuoto, privo di qualsiasi movimento. In fondo, non m'ero aspettata di vedere altro. Il cannocchiale mi scivolò di mano, andando a battere contro le ginocchia. Ora non riuscivo più a distinguere i campanili. L'ince si annoiava e voleva proseguire. Mi alzai per seguirlo. Abbandonai il secchio vuoto nella malga per non doverlo riportare fin lassù. Presi invece con me gli almanacchi, un sacchetto di farina e la zangola. La legai sopra lo zaino, che immediatamente incominciò a premere e a urtarmi. Ma non potevo rinunciarvi. Già era abbastanza faticoso battere il burro in piccole dosi con la frusta. Ora che possedevo una zangola, potevo perfino pensare a fondere il burro per conservarlo. L'ince fu preso da uno dei suoi momenti di follia e sfrecciò sul prato facendo volare le lunghe orecchie. Io lo seguivo arrancando sotto la zangola. Ho sempre avuto un'avversione per i carichi pesanti e per tutta la vita non ho fatto che sfacchinare. All'inizio con la cartella troppo piena, in seguito con valigie, bambini, borse della spesa e secchi di carbone e ora, oltre ai fasci di fieno e ai ciocchi di legna, anche una zangola. Mi meravigliavo che le mie braccia non si fossero ancora allungate fino alle ginocchia. In quel caso avrei sentito meno dolore alla schiena ogni volta che mi chinavo. Mi mancavano solo gli artigli, un pelo folto e lunghe zanne e sarei stata una creatura perfettamente adattata. Piena di invidia osservai l'ince volare agile sul prato e mi venne in mente che dal mattino avevo bevuto solo un po' d'acqua di fonte sull'Alpe. Avevo completamente scordato di mangiare. Le mie provviste dormivano sotto la zangola. Arrivai a casa sfinita e per diversi giorni continuarono a farmi male le spalle, ma la zangola era salva. Nel mio calendario, a questo punto, trovo 2 settimane senza alcuna annotazione. Ricordo appena quel periodo. Stavo tanto bene o tanto male da non aver voglia di scrivere. Piuttosto male, suppongo. L'alimentazione monotona e i grandi sforzi mi avevano molto debilitata. Eppure, deve essere stato in quel periodo che iniziai a raccogliere cortecce e legna minuta per stiparle nella camera al piano superiore. L'avevo già fatto in precedenza. Mi serviva della legna asciutta per accendere il fuoco. Col tempo buono, la legna sotto la veranda era veramente al riparo dalla pioggia, ma bastava che tirasse vento perché di tanto in tanto si inumidisse faticando a prendere fuoco. Come deposito per la legna avrei potuto benissimo utilizzare il garage, ma ne avevo bisogno per il fieno. La legna umida, d'altra parte, ha pure i suoi vantaggi, arde più lentamente e occorre ricaricarla meno spesso. La sera, se voglio che il fuoco non muoia durante la notte, aggiungo sempre legna umida. Il 2 ottobre, secondo il calendario, mi destai a nuova vita. Quel giorno raccolsi le patate, le trascinai fino a casa nei sacchi e le stesi nella camera da letto. Non osavo riporle nella piccola cantina scavata nella roccia dietro la casa. Vi lasciai qualche patata tanto per provare, ma gelò subito alla prima brinata. Chiudendo le imposte, la camera da letto era buia e fresca e, strano a dirsi, non umida. A quel punto, avendovi stipato tutte le provviste, era spaventosamente ingombra. Il mio capitale iniziale si era moltiplicato. Quella sera, malgrado la stanchezza, cucinai una pentola di patate bollite e le mangiai col burro fresco. Fu un vero festino e per la prima volta mi saziai veramente, tanto da addormentarmi sulla tavola. Anche Lince, che mi svegliò un'ora dopo pieno di riprovazione, aveva mangiato patate. Solo i gatti, da veri predatori, le avevano disdegnate. A Lince, del resto, le patate piacevano, ma sapendo che gli facevano male, non gliene davo spesso. Volevo evitare che il campo si inselvatichisse. Durante il primo anno ero riuscita a malapena a contenere la gramigna e così mi decisi a vangarlo subito. Dopo un giorno di riposo dedicato a raccogliere i fagioli, mi misi al lavoro. Non fui tranquilla fin quando non ebbi finito. Feci seccare i fagioli al sole e li misi subito da parte per la semina. Dopo molti calcoli e lunghe riflessioni, accantonai anche una certa quantità di patate. Mi sono sempre attenuta al proposito di non toccare quella porzione di patate. Era meglio sopportare per qualche settimana una fame moderata che morire di fame l'anno successivo. Una volta messo al sicuro il mio raccolto, mi ricordai degli alberi da frutto sul prato dove avevo incontrato Bella. Vi trovai un melo, 2 susini e un pomo selvatico. I susini avevano 24 frutti, piccole prugne maculate ricoperte di gocce di resina, ma molto dolci. Le mangiai tutte lì sul posto e la notte mi venne il mal di pancia. Il melo portava 50 di frutti, grosse mele invernali dalla buccia coriacea e dalle gote rosse, l'unico tipo di mela che cresce bene in montagna. Prima m'era sempre parso che sapesse di carota, ma a quel tempo dovevo essere molto schizzinosa e viziata. Il melo selvatico era tutto ricoperto di piccolissime meline rosse. In realtà si possono utilizzare solo aggiungendole alla miscela del sidro. Con un certo sforzo le mangiai tutto l'anno per via delle vitamine. Le mele non erano ancora completamente mature, così le lasciai sull'albero. Era una giornata splendida, l'aria già un po' fredda e frizzante, e dall'altra parte della parete potevo distinguere ogni albero e ogni singola masseria. Le tende erano sempre tirate e le 2 vacche, compagne di Bella, giacevano nel loro profondo sonno di pietra. L'erba mai falciata ricopriva i loro fianchi, nascondendo alla mia vista le froge. La piccola casa era circondata da un mare di ortiche. Avrebbe potuto essere una bella escursione, ma la vista delle 2 bestie di quella selva di ortiche mi aveva sconvolto e depresso. L'autunno è sempre stata la mia stagione prediletta, sebbene fisicamente non mi sia mai sentita molto bene. Di giorno, per quanto lucidissima, ero stanca e di notte giacevo per ore in un dormiveglia inquieto, facendo sogni confusi e più vivaci del solito. Il malessere autunnale non mi ha risparmiato nemmeno nel bosco, ma visto che difficilmente potevo permettermelo, prese una forma più blanda. Probabilmente non avevo nemmeno tempo di prestargli molta attenzione. Lince era molto allegro ed esuberante, ma un estraneo forse non avrebbe notato alcuna differenza, era quasi sempre allegro del resto. Non ho mai visto imbronciato per più di 3 minuti. Gli era semplicemente impossibile resistere alla tentazione di essere allegro. E per lui la vita nel bosco rappresentava una continua tentazione. Il sole, la neve, il vento, la pioggia, tutto era un'occasione per entusiasmarsi. Accanto a Lynch la mia tristezza non durava mai a lungo. Era quasi imbarazzante che lo starmi vicino lo rendesse tanto felice. Non credo che gli animali adulti allo stato selvatico siano mai felici o soltanto allegri. La convivenza con l'uomo deve aver destato questa facoltà nel cane. Mi piacerebbe sapere per quale motivo noi esercitiamo sui cani un effetto simile alla droga. Forse è al cane che l'uomo deve la sua megalomania. Perfino io mi illudevo ogni tanto di possedere qualche dote straordinaria, visto che Lynch nel vedermi sembrava quasi impazzire di gioia. Naturalmente non avevo proprio nulla di eccezionale, ma Lynch, come tutti i cani, sentiva solo un'attrazione morbosa per gli esseri umani. Ogni tanto, quando mi trovo a camminare sola nel bosco invernale, parlo con Lynch come prima. Non me ne rendo conto fino a quando qualcosa non mi fa sussultare dallo spavento e allora ammutolisco. Volto la testa e colgo al volo il riflesso d'un manto rosso-bruno. Ma il sentiero è deserto, arbusti spogli e pietre umide. Non mi stupisco di continuare a sentire alle mie spalle il crepitare dei rami secchi sotto il passo leggero delle sue zampe. Dove altro potrebbe aggirarsi il fantasma della sua piccola anima di cane, se non sulle mie tracce? È uno spettro amico e non mi fa paura. Lince, cane mio, cane bravo e bello. Probabilmente è solo la mia povera testa a creare il suono dei tuoi passi, il riflesso del tuo pelo. Fin quando vivrò, tu seguirai le mie orme, famelico e consumato dalla nostalgia, come anch'io seguo, famelica e consumata dalla nostalgia, orme invisibili. Noi due non riusciremo mai a fermare la nostra selvaggina. Il 10 ottobre raccolsi le mele e le stesi su una coperta nella camera da letto. Ormai la mattina faceva già tanto freddo che dovevo aspettarmi una brinata da un giorno all'altro. Era tempo d'andare a prendere i mirtilli rossi. Questa volta non sostai nel punto dal quale si godeva il panorama. Vidi al primo sguardo che non era cambiato nulla. Solo i boschi rifulgevano nel loro nuovo splendore cromatico. Tirava vento e il sole emanava così poco calore che, cogliendo le bacche, mi si irrigidivano le mani. Preparai del tè nella capanna e diedi un po' di carne al Lince. Poi misi il secchio con i mirtilli nello zaino e scesi a valle. Feci bollire i frutti fino a farne una marmellata e la sistemai in vase di vetro. Anche questa piccola provvista mi avrebbe aiutata a sopravvivere all'inverno. Ora mi attendevano solo altri due lavori. Restava da falciare lo strame per Bella e dovevo riempire il garage di fieno prima che arrivasse il freddo. Avrei potuto prendermi la calma e il tempo rimase bello ancora per molto. Tagliai lo strame con la falciola, lo rastrellai insieme al fogliame secco. Bastò un giorno per farlo seccare, poi lo stipai in un piccolo ripostiglio sotto il tetto della stalla. Quello che non riuscii a sistemare lì lo ammucchiai in un angolo della stalla e così avevo finalmente messo al riparo anche il fieno e potevo concedermi una tregua. Ed eccomi veramente seduta sulla panca davanti alla casa nel debole tepore del sole di mezzogiorno, senza per questo espormi a un rischio perché troppo stremata per rimuginare. Me ne stavo seduta immobile, le mani nascoste sotto la mantella, offrendo il viso alla luce tiepida. Lince frugava tra i cespugli e tornava sempre per accertarsi che stessi bene. Perla, intenta a divorare una trota sotto la veranda, saltò accanto a me sulla panca e incominciò a lavarsi il lungo pelo. Ogni tanto si arrestava, strizzandomi gli occhi e facendo rumorosamente le fusa, per poi tornare a dedicarsi al suo ardente bisogno di igiene. Il tempo era sereno, per cui continuai a lasciare Bella nel prato, rifornendola però di fieno fresco la sera. L'erba del prato non poteva più bastarle, s'era fatta ispida e dura, e la maggior parte l'avevo falciata per lo strame. Bella era diventata un po' più tonda, ma ancora non potevo sapere se aspettasse un vitello. La mia speranza veniva rinfrancata dal fatto che in tutti quei mesi non avesse mai chiesto il toro, ma continuavo a sentirmi tutt'altro che sicura. La primavera, l'estate e l'autunno erano passati e io avevo fatto tutto il possibile. Forse non aveva senso, ma ero troppo stanca per riflettervi. Tutte le mie bestie si trovavano lì accanto e le avevo accudite come meglio avevo potuto. Il sole mi pizzicava in viso e chiusi gli occhi. Ma non mi addormentai. Ero troppo stanca per dormire e tantomeno mi mossi. Ogni gesto mi faceva male e volevo solo star seduta tranquilla al sole, libera da qualsiasi dolore e senza dover pensare. Ricordo con precisione quel giorno. Vedo sotto gli abeti le ragnatele iridescenti tese tra gli alberi accanto alla stalla, nel vibrare dell'aria verde dorata. Il paesaggio aveva acquistato una profondità e una chiarezza tutte nuove. E io desiderai restare tutto il giorno così, seduta a guardare. La sera, tornando a casa dalla stalla, il cielo s'era coperto e mi parve facesse più caldo. Quella notte, malgrado la stanchezza, dormii malissimo, ma la cosa non mi turbò. Giacevo lunga distesa, soddisfatta, ad aspettare. Ad un certo punto fui presa dall'idea che dormire fosse comunque un grande spreco. Verso l'alba tornò la gatta, si addossò all'incavo delle mie ginocchia e incominciò a fare le fusa. Era una sensazione piacevole e calda e non avevo bisogno di sonno. Eppure alla fine dovetti prendere sonno perché quando mi svegliai era tardi e Lince chiedeva impetuosamente di uscire. Pioveva e dopo la lunga siccità ne fui piuttosto contenta. Il ruscello era quasi prosciugato e le trote si trovavano in condizioni disperate. La pioggia sembrava sospesa come un velo grigio sopra il bosco, condensandosi in nebbia negli strati più alti. Faceva più caldo di quanto avesse fatto durante le giornate di bel tempo, ma tutto luccicava d'umidità. Quella pioggia significava la fine dell'autunno, lo sapevo. Introduceva l'inverno, il lungo tempo del quale avevo paura. Tornai lentamente in casa per accendere il fuoco. Piovve per 2 giorni con un freddo crescente. Il 27 ottobre cadde la prima neve. Lince la salutò con allegria. La gatta era contrariata e Perla fissava incuriosita il turbine bianco. La fece uscire dalla porta e lei si accostò cautamente a quella sconosciuta cosa bianca che ricopriva il sentiero. Sollevò molto lentamente una zampa, sfiorò la neve, si scosse impaurita e tornò di volata in casa. Durante il giorno ritentò una decina di volte, senza mai riuscire a immergere la zampa in quella cosa fredda e bagnata. Infine andò a sedersi sul davanzale a sonnecchiare come sua madre. La vecchia gatta era coraggiosa e temprata, ma non le piaceva affondare le zampe nella neve ancora bagnata. Di notte scivolava all'aperto per sbrigare i suoi bisogni e poi tornare immediatamente in casa. È un animale estremamente pulito. In casa si comporta come se fosse un puro spirito e alla stessa pulizia ha educato anche i suoi figli. Perfino le prede di caccia le divora da qualche parte all'aperto. È probabile che prima non le fosse affatto permesso entrare in casa. Perla portava tutte le sue trote in cucina e Tigre deponeva qualsiasi preda ai miei piedi e prima di toccarla voleva che lo accarezzassi. Comunque, sono ben contenta che la gatta mi risparmi simili attenzioni e sia eccezionalmente indipendente. Alla peggio, riuscirebbe a farcela anche senza il mio aiuto. Tutti i miei gatti avevano e hanno tuttora l'abitudine di girare attorno alla loro scodella dopo aver mangiato e di raspare per terra. Ignoro cosa significhi. In ogni caso, non tralasciavano mai di farlo. I gatti, d'altronde, vivono secondo un cerimoniale quasi bizantino. E si risentono moltissimo se vengono disturbati durante i loro riti misteriosi. Lince, al confronto, era d'una naturalezza spudorata e loro avevano l'aria di disprezzarlo leggermente per questo. Se deponevo uno dei miei gatti sulla panca, saltava giù, andava avanti e indietro un paio di volte e tornava a sedersi esattamente nello stesso punto dove l'avevo deposto prima. Confermavano, con quel gesto, la loro libertà e la loro indipendenza. Osservarli mi procurava tutte le volte un senso di gioia. Ma alla mia simpatia si mescolava sempre una certa ammirazione venata di timore. Lince sembrava nutrire sentimenti analoghi. Era affezionato ai gatti perché facevano parte di noi, in particolar modo a Perla, la quale non lo respingeva mai soffiando. Ciò malgrado aveva sempre l'aria di sentirsi leggermente a disagio. Fu bello, l'ottobre di quel primo anno, vivere con Lince, Perla e la vecchia gatta. Avevo finalmente tempo per occuparmi di loro. L'inverno si affacciò solo per pochi giorni. Poi arrivò il fön a leccare la neve fresca dalle montagne. La temperatura si fece calda e sgradevole e il vento turbinava notte e giorno, sibilando attorno alla piccola casa. Dormivo male e ascoltavo il bramire dei cervi scesi dalle alture per la stagione degli amori. Lince era diventato irrequieto, abbaiava e guaiva perfino nel sonno. Forse sognava le cacce di un tempo. Entrambi i gatti subirono il richiamo del bosco umido e caldo. Giacevo sveglia, tormentata dall'ansia per Perla. Il bramire dei cervi aveva un suono triste, minaccioso, a volte quasi disperato. Forse quel suono pareva triste solo a me. Nei libri ho letto descrizioni affatto diverse. Parlavano sempre di lampante provocazione, di orgoglio, desiderio. Forse è colpa mia se non sono mai riuscita a sentirvi nulla di tutto ciò. A me quel suono ricordava sempre un'ineluttabile, terribile necessità che li spinge a precipitarsi ciecamente nel pericolo. D'altra parte, non potevano sapere di trovarsi quell'anno al riparo da qualsiasi minaccia. La carne di un cervo in amore è assolutamente immangiabile. Giacevo dunque sveglia e pensavo alla piccola Perla, tanto inesperta e così esposta al pericolo nella sua pellicetta bianca, in un mondo di gufi, martore e volpi. Speravo solo che il fön non durasse troppo a lungo e che l'inverno potesse recarci infine un po' di pace. Il vento, infatti, durò solo 3 giorni, giusto il tempo per uccidere Perla. Il 3 novembre, la mattina, non tornò a casa. Andai a cercarla con Lince, ma non la trovammo. Quel giorno si trascinò malinconico e lento. Il tempo continuava a essere pesante e il vento caldo mi rendeva irrequieta. Lince non cessava di andare avanti e indietro. Se era all'aperto, voleva subito rientrare in casa per guardarmi con aria perplessa. Solo la vecchia gatta se ne stava sdraiata sul mio letto a dormire. Non sembrava avvertire la mancanza di Perla. Si fece sera. Mi occupai della mucca, cucinai qualche patata e diedi da mangiare a Lince e alla gatta. L'oscurità calò all'improvviso mentre il vento scuoteva le imposte. Accesi il lume e sedetti al tavolo tentando di leggere uno degli almanacchi, ma lo sguardo continuava a scivolare verso lo sfondo semibuio della stanza dove si trovava la gattaiola. E poi ci fu un leggero raschiare e Perla sgusciò da dietro l'angolo dell'armadio. La vecchia gatta si drizzò, cacciò un urlo e saltò dal letto. Credo fosse quell'urlo a spaventarmi al punto da essere incapace di alzarmi subito. Perla si avvicinò lentamente con un atroce, cieco movimento strisciante, quasi slittasse con tutte le ossa rotte. Arrivata davanti ai miei piedi, tentò di sollevarsi e mise un grido soffocato e si accasciò, battendo la testa sul pavimento. Un fiotto di sangue le sgorgò dal muso. Poi, tutta tremante, si allungò per terra. Quando mi inginocchiai davanti a lei, era già morta. Lince si trovava accanto a me e si ritrasse con un guaito dalla sua compagna di giochi sanguinante. Accarezzai quel pelo madido e appiccicaticcio e fu come se fin dalla nascita di Perla avessi sempre atteso quell'ora. L'avvolsi in un panno e al mattino la sotterrai nel prato vicino al bosco. Il legno secco del pavimento aveva assorbito il suo sangue come assetato. La macchia si era scolorita, ma non riuscirò mai a farla scomparire. Lince cercò Perla per giorni interi, Poi sembrò rendersi conto che se n'era andata per sempre. L'aveva vista morire, eppure non sembrava afferrare il nesso. La vecchia gatta sparì per 2 giorni e poi riprese la sua vita abituale. Non ho mai dimenticato Perla. La sua morte fu la prima perdita che subì nel bosco. Pensando a lei, raramente la vedo seduta sulla panca nel suo bianco splendore, lo sguardo fisso sul volo delle farfalle azzurre. Il più delle volte mi appare come misera spoglia insanguinata. Gli occhi socchiusi, infranti, la lingua rosa stretta tra i denti. Non posso farci niente. Non ha alcun senso difendersi dalle immagini. Vanno e vengono, e più mi difendo, più diventano macabre. Perla era sepolta e il fön si placò durante la notte, quasi avesse compiuto il suo dovere. Dal cielo cadde neve fresca, il bramire dei cervi si fece più debole e dopo pochi giorni tacque del tutto. Badai al mio lavoro e tentai di non cedere alla malinconia che s'era impossessata di me. Ora, finalmente, regnava la quiete invernale, ma non quella quiete che avevo desiderato. Una vittima era caduta e nemmeno il tepore della stufa e la luce del lume potevano riportare, come per incanto, un'atmosfera accogliente nella casa. Ormai di quell'atmosfera non sapevo più che farmene e con soddisfazione di lince andai spesso nel bosco con lui. Là regnava un freddo inospitale, comunque più facile da sopportare del falso benessere della mia casa calda e dolcemente illuminata. Sparare a un capo di selvaggina mi pesava. Mangiavo solo controvoglia e ripresi a dimagrire come dopo la raccolta del fieno. Non ho mai perduto questa ripugnanza a uccidere. Deve essermi connaturata e devo tornare a superarla ogni qualvolta mi occorre della carne. Adesso capivo per quale motivo Ugo cedesse a Luise e ai suoi soci in affari l'abbattimento della selvaggina a cui aveva diritto. A volte penso che sia un peccato che Luise non sia rimasta in vita. Almeno per l'approvvigionamento di carne non avrei problemi. Ma lei non voleva mai rinunciare a qualcosa. E così trascinò nella rovina anche il povero Ugo. Forse sta ancora seduta al tavolo dell'osteria, un oggetto pietrificato, senza vita, le labbra dipinte, i riccioli fulvi. Le piaceva tanto vivere e sbagliava sempre tutto, perché nel nostro mondo non è consentito vivere impunemente con tanto gusto. Quando era ancora in vita, la sentivo completamente estranea e a volte mi disgustava. Ora che è morta, però, le voglio quasi bene. Forse perché ora ho tanto tempo per riflettere su di lei. In fondo di lei non ho mai saputo molto più di quanto oggi sappia di Bella o della gatta. Ma è appunto molto più facile amare Bella o la gatta che un essere umano. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlene Haushofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.